Buonasera a tutti voi, grazie. Come è stato più e più volte detto, io sono il pastore Fabio e oggi predicherò io. Grazie pastore Mirko per questo invito e grazie Vito e Sara per l'ospitalità, sempre meravigliosa. Grazie a tutti voi perché è sempre bello essere qui. Per chi non mi conosce, io sono Fabio Notaro Nicola, sono pastore di una chiesa in provincia di Varese, domani abbiamo bel tempo anche noi. E questa è una novità, lo so, lo ammetto, però domani ci va bene anche a noi. E sono però prima di tutto sposato con mia moglie che si chiama Miki e Micaela e siamo genitori di tre bellissimi figli, Alice che ha 13 anni, Federica che ne ha 11, Davide che ne ha 6 e poi come ho già detto stamattina mia moglie ha detto Amen. E abbiamo finito lì, ok? Quindi questo dato non cambierà. Mai dire mai, però insomma, siamo responsabili appunto di una chiesa, pastore di una chiesa in provincia di Varese, siamo responsabili anche di adolescenti d'oggi. Per tanti anni abbiamo fatto campi estivi proprio qui a Ruvo di Puglia, è per questo che conosciamo tante persone qui ed è sempre bello tornare, vedere che crescete e che crescete in numero, crescete in sapienza, crescete in età e anch'io, anche se rimango sempre questo splendido ragazzo, però sto crescendo anch'io, i miei figli me lo fanno notare periodicamente, però siamo contenti e felici perché anche io ho 46 anni ed è bellissimo avere 46 anni. Amen? Un po' più di gioia. Dio è il Dio di ogni generazione e ogni generazione è meravigliosa, straordinaria e non lasciatevi influenzare dalla mentalità di questo mondo che fa pensare che la vita finisca a 30 anni. Gloria a Dio, abbiamo una vita meravigliosa con il Signore e ogni età è meravigliosa. Ma non è questo il tema di questa sera. Oggi è Pasqua e quindi parleremo della morte e della resurrezione di Gesù e in modo particolare ho scelto tre momenti della storia di Gesù che sono davvero importanti, soprattutto appunto parlando della passione, degli ultimi giorni della vita di Gesù. E voglio partire dal primo versetto che parla del Getsemani, il momento in cui Gesù ha vissuto quel momento molto forte che viene ricordato come Getsemani. Siamo in Marco capitolo 14 e voglio leggervi soltanto un versetto, che è il versetto 36 in questo passo. Gesù si trova nel Getsemani, che significa luogo, è un giardino con, era un giardino con degli ulivi, il luogo del frantoio, lì dove veniva realizzato l'olio. L'olio, biblicamente parlando, è simbolo dell'unzione, quindi della potenza di Dio in manifestazione nella nostra vita, e Gesù si trova proprio in quel luogo, origine, fonte della nostra potenza, ed è lì per pregare, perché la preghiera è la fonte del nostro contatto con Dio, non dobbiamo mai dimenticarci questo momento così importante. Gesù ormai è consapevole che tra poco ci sarà da affrontare la croce e la separazione dal Padre, perché poi a lui quello che più preoccupava era il fatto di separarsi, di vivere questa separazione dal Padre. Non era tanto la sofferenza fisica, era proprio la sofferenza spirituale. Mai era successo nell'eternità che Dio Padre e Dio Figlio fossero separati, quindi temeva proprio quel momento. E siccome faceva fatica ad affrontare questa situazione, decide di pregare, di appartarsi, e siamo proprio in questo momento, e fa questa preghiera meravigliosa, versetto 36, e disse: Abba Padre, ogni cosa ti è possibile, allontana da me questo calice, però non ciò che io voglio, ma ciò che tu vuoi. Abba Padre, bellissima questa espressione, ogni cosa ti è possibile. Ricordiamoci sempre questi due aspetti di Dio. Tutti noi conosciamo, se credi in Dio, immaginiamo un Dio onnipotente, ogni cosa gli è possibile. Però proprio questa potenza di Dio, il fatto che lui possa fare quello che vuole, quello che la sua onnipotenza incute timore, perché? Perché non sappiamo, a meno che non l'abbiamo conosciuto, in che modo userà questa potenza. Io sono cresciuto con mia madre che mi diceva: io ti ho creato, io ti distruggo e ti disintegro. Nei momenti, non è che me lo dice tutti i giorni, però quando c'erano momenti di difficoltà, ok, il suo modo di convincermi e la sua onnipotenza era data dalla ciabatta o dal mestolo o quant'altro. E noi però, come vediamo i nostri genitori, un po' abbiamo riflesso anche di Gesù, di Dio, di come lui, come userà tutta questa onnipotenza che ha in mio favore, contro di me, poi Dio onnisciente, sa tutto quello che faccio, st'ansia, che mi vede dappertutto, il grande fratello, insomma tutto. Però Dio, Gesù nella preghiera prima dice Abba Padre. Gesù ha sempre chiamato Dio Papà, tranne nel momento sulla croce quando c'è stata questa separazione, Dio mio perché mi ha abbandonato, ma era una citazione di un salmo. Ma per il resto Gesù ci ha mostrato qual è la giusta relazione, come realmente dobbiamo vedere Dio. Dio è un padre ed è un padre buono ed è anche onnipotente. E Gesù si ritrova nel giardino, quell'immagine del giardino è importante perché si ritrova nella stessa situazione, siamo ritornati nella stessa situazione in cui Adamo ed Eva si trovarono molto tempo prima. Loro erano in Eden, un giardino meraviglioso, straordinario, e anche loro fecero una scelta, fidarsi o meno di Dio, fidarsi o meno del consiglio di Dio. Dio gli aveva detto di mangiare di tutti gli alberi del frutti di tutti gli alberi del giardino, ma di non mangiare del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. Quello che il nemico, il diavolo, è riuscito a fare in quel momento, ed è qualcosa che ci portiamo dentro tutti noi, è stato questo: ma ha Dio veramente detto di non mangiare di quell'albero, dei frutti di quell'albero? Eh sì, Dio ha detto di non mangiarlo, di non toccarlo. E Dio dice, e il diavolo ha detto una cosa, una frase che è rimasta proprio dentro di noi, dentro l'umanità. Il diavolo ha detto: ma Dio sa che se voi ne mangiate, voi diventerete come Lui. Che cosa ha fatto il diavolo? Il diavolo è riuscito a insinuare il sospetto che Dio non fosse così buono e che Dio in realtà stesse usando Adamo ed Eva come delle pedine per qualcosa, per degli scopi suoi, che Dio fosse un Dio in realtà malvagio e che ti vietasse di fare delle cose solo per il gusto di vietartele, ma non per il tuo bene. Vi racconto una piccola storia, perché poi tutte le problematiche nascono alle elementari. Non so se c'è qualche maestra delle elementari, chiedo perdono, però insomma le chiese vivono dei traumi che avete indotto alle elementari. Quando ho scoperto che un po' dappertutto viene questo, verso la terza, quarta elementare, c'è un momento in cui i insegnanti vogliono farti vedere come funzionano i semi, il seminare, il seme che muore, le radici. Allora chiedono ai bambini, che poi i bambini chiedono ai genitori, e ho visto che anche i miei figli me l'hanno chiesto, a un certo punto di portare a scuola delle lenticchie. Lenticchie, fagioli, tutto quello che volete. Però danno le lenticchie. E per fare l'esperimento, le lenticchie si mettono in un vassoio con del ovatta, e poi si mette un po' d'acqua, nel vassoio si mette sul davanzale, e per far vedere che dopo qualche giorno, settimana, spuntano le radici e spunta la prima pianticella, le foglioline, e tutti quanti noi portiamo questo vassoio, portiamo le lenticchie, e poi la maestra dice: però ne scegliamo uno per fare una cosa diversa da tutti gli altri. E tu da bambino speri sempre che sia tu quello prescelto, no? Che non sai cosa ti aspetta, e da quella volta poi non alzi più la mano, non fai più niente, ok? E dicono in chiesa: ma perché sei timido? Tu non hai avuto gli elementari che ho fatto io. Allora vengo scelto io. Wow! Quindi prende il mio vassoio con le mie lenticchie. Allora, tutte sul davanzale. Le tue le mettiamo nell'armadio. Così vediamo la differenza. Quindi dopo 2 settimane tutte le lenticchie dei miei amici erano belle e fiorite. Sembra la verga di Oronno. E invece la mia, ovviamente, cosa è successo? Che la maestra voleva dimostrare a tutti i bambini che non solo serve l'acqua, non solo servono le lenticchie, ma serve anche la luce, e che quindi le lenticchie tue sono morte, marcite, fanno proprio bruttissime da vedere. Ora, perché vi racconto questo? Perché, diciamoci la verità, quando a noi ci succede qualcosa, le cose non vanno secondo i nostri piani, ci succede qualcosa di imprevedibile, di imprevisto, qualcosa anche di brutto, quando così iniziamo a vivere delle difficoltà, tutti quanti ne pensiamo dentro di noi che forse, principalmente due cose, guardate, parlando con tante persone, come pastore, affrontiamo tante situazioni diverse, di tante persone diverse, tutti quanti noi abbiamo subito questo pensiero. Uno, che Dio ci stia usando per degli obiettivi suoi, che ci stia sacrificando per raggiungere qualche suo obiettivo. C'è un piano più grande che noi non capiamo e quindi siamo sacrificati in questo. Oppure l'altra cosa, che in realtà ci sta punendo per qualcosa, che è colpa nostra, che in realtà stiamo raccogliendo quello che abbiamo seminato. Molte volte abbiamo sentito in chiesa parlare dell'importanza della semina e della raccolta, noi stessi la insegniamo, ma arriviamo a ragionare in maniera così, permettetemi questo termine, così sballata, che pensiamo che certe cose poi alla fine Dio le abbia istituite per venirci contro. No, Dio ci insegna la semina e la raccolta per il nostro bene, per dirci: guarda che se nella tua vita semini cose belle, tu raccoglierai cose belle. Però il diavolo è riuscito a insinuare in tutti noi la cultura del sospetto, il sospetto che comunque qua la lenticchia sono io, e che gli altri, un altro modo per dirlo è: stasera c'è una festa e nessuno mi ha invitato. Mi hanno detto di stare qua a pulire il locale, ma io lo so dove sono tutti gli altri. Cresciamo con questo vittimismo dentro, perché è conseguenza del peccato. E sai, nel momento in cui il diavolo è riuscito a insinuare questo dubbio, Adamo ed Eva non sono mai più riusciti a gustarsi niente del giardino dell'Eden. Perché? Perché quando tu hai un'idea sballata di Dio, ogni suo dono lo vivi male, lo vivi con sospetto. Ah, tu mi stai dando questo, ma perché vuoi da me quest'altro? E anche nelle relazioni tra di noi. Viviamo male perché viviamo le relazioni nella cultura del sospetto. E Gesù invece si ritrova nel Getsemani esattamente nella stessa condizione: fidarsi o no di Dio. Una cosa interessante che a me incoraggia molto è questo, che anche Gesù in alcuni momenti ha avuto bisogno di pregare, perché non sempre è facile, non sempre è facile seguire la volontà di Dio. Se anche Gesù ha avuto un momento in cui c'è stato, vedete, noi abbiamo in mente Gesù sempre molto determinato, ed è sempre stato così, però qua ci fa vedere che anche Gesù ha avuto un momento in cui si è dovuto fermare e trovare forza in Dio, e dire a Dio semplicemente: papà, io questa cosa non vorrei farla. Però ha fatto una cosa eccezionale, ha detto: ma non la mia volontà, ma la tua. Ha detto: io mi fido di te. Io mi fido di te. Questa per me è ubbidienza. Ma non è solo ubbidienza, è ubbidienza fiduciosa. Io ubbidisco perché so che se ubbidisco a te, ti sto coinvolgendo nella mia vita. Io so che, sapete, Gesù lì in quel momento doveva scegliere o lanciarsi tra le braccia del Padre o scappare sulle proprie gambe. E lui ha scelto di lanciarsi fra le sue braccia. E quando tu ti lasci andare tra le braccia del Padre, c'è un momento in cui perdi il controllo, non capisci cosa sta succedendo. E anche per Gesù è stato così. Però Gesù ci insegna qui questa preghiera meravigliosa. E Gesù ha detto, disse ai discepoli: pregate per non entrare in tentazione. La tentazione che cos'è? La tentazione è proprio cadere nel modo di pensare diabolico che Dio non ci voglia bene. Vi rendete conto che Adamo ed Eva vivevano in Eden, un luogo lussureggiante, misterioso, straordinario, ogni cosa era perfetta, ogni cosa era per loro, loro vivevano una vita straordinaria. Se loro in Eden sono caduti nella tentazione di pensare che Dio non si sta prendendo cura di me, ma quanto più noi. Capisco che vivete in Puglia e ci avete il sole, però non è proprio come Eden, ok? Per noi di Varese è ancora più facile. Però capite che è una cosa, dobbiamo afferrare questo concetto perché è importantissimo. Dio mi vuole bene, mi posso fidare di Lui. Mi posso fidare di quello che Lui mi dice. E Gesù è stato proprio questo esempio di colui che ha pregato, ha detto: Abba Padre, ogni cosa ti è possibile, allontana da me questo calice. Nella preghiera chiesa sincerità, siate sinceri con Dio. Quando non vi sentite di fare qualcosa, diteglielo. Però poi ascoltate, cercate di ricevere questa forza da Lui. Non dobbiamo per forza nascondere, aver paura di dire i nostri dubbi. No, diteli, parlatene. Vedete, obbedire vuol dire anche chiedere perdono, obbedire vuol dire anche confessare i propri peccati gli uni agli altri, confessare, trovare qualcuno di fidato, di più maturo nella fede, parlare dei propri dubbi, anche quella è obbedienza. E ti fa paura perché non... Ma l'altro poi cosa ne farà di quello che io gli dico? Lo userà contro di me? Fidati. Non avere questa mentalità. Non avere questa mentalità del sospetto, di tenere tutto dentro, perché quello che tieni dentro prima o poi viene fuori e ti farà male. E Gesù in questo momento sta pregando, ma sta adorando il Padre. Guardate che l'adorazione più alta è questa obbedienza fiduciosa. La lode, l'adorazione, il canto è straordinario. Questa è una manifestazione della lode, dell'adorazione. Ma lo stile di vita del credente dovrebbe essere questa adorazione fatta di obbedienza con fiducia. Io obbedisco perché ho fiducia in te. E quando Dio Padre vede un suo figlio che obbedisce in maniera gioiosa, si esalta e qualcosa succede, come vediamo che succede nell'episodio della croce e della resurrezione. Però c'è da dire una cosa, e devo essere sincero con voi, che Gesù ha obbedito ed è stato crocifisso. Amen, però. Cioè, obbedire a Dio non vuol dire arrivare subito al trono, non vuol dire arrivare subito alla glorificazione, alla manifestazione di quanto giusto sia la scelta che hai fatto. Anzi, quando Gesù ha scelto, Gesù non ha scelto di andare alla croce, meglio, Gesù ha scelto di obbedire, la conseguenza è stata la croce. Gesù non era un sadico, Gesù ha scelto di obbedire. Quando tu scegli di obbedire al Padre, non è detto che arrivi subito in un luogo dove tutti applaudono e tutti riconoscono la grandezza della tua fede. No, sarai provato. Perché? Perché vivi comunque in una società che vive nel sospetto. E quindi è questo ciò che Gesù ci ha mostrato. Gesù ci ha insegnato ad avere fede non soltanto in chiesa, ma anche fuori, quando sei sul lavoro, quando sei nella vita di tutti i giorni, di muoverti secondo quello che c'è nel tuo cuore, anche quando le cose si fanno difficili, anche quando c'è un prezzo da pagare molto alto, perché qua è facile alzare le mani e dire gloria a Dio, io credo nel Signore, ed è giusto che sia così, perché oggi è domenica. Domenica, quando Gesù è entrato in Gerusalemme, domenica, c'era stata una grande festa, tutti lo hanno accolto in maniera splendida, però siamo a giovedì, e il giovedì è un po' più dura, vero? Giovedì è un po' dura perché la settimana sembra ancora lunga, però Gesù ci ha insegnato che è proprio lì che c'è la vittoria più grande. Essere forti qui, ricevere forza, incoraggiamento qui, ma poi portare la luce nel mondo. Però il mondo è sospettoso e quando il sospetto incontra amore, il sospetto vuole togliersi il dubbio. Perché Gesù è morto sulla croce? Perché i religiosi sospettavano di questo Dio che si presentava così amorevole, così misericordioso. Non può essere. E così lo hanno schiaffeggiato, lo hanno preso in giro, gli hanno sputato addosso, lo hanno deriso, lo hanno torturato, lo hanno flagellato, lo hanno messo in croce, sperando che prima o poi lui scendesse dalla croce in maniera plateale, vincesse e uccidesse tutti i suoi nemici, perché quello era il Dio che loro avevano in mente. Avrebbe confermato il loro pensiero. E invece Gesù, che è amore, voleva che l'uomo si togliesse il dubbio, il sospetto. E quindi cosa ha fatto? È morto per noi. Ogni volta che ti viene il pensiero che Dio ti stia punendo per qualcosa che hai fatto, guarda la croce, perché la croce invece ti dice che Lui ha preso il tuo posto. Lui ha detto, piuttosto che farlo pagare a te, che sei mio figlio, ci vado io. Pago io. Io come genitore, vedete, la relazione che c'è nella famiglia è molto sintomatica di quello che è la passione che Dio ha per noi. Io non farei mai, mai, mai del male ai miei figli. Anche quando ti fanno arrabbiare, che prendono magari il rimbrotto, magari c'è il momento in cui alzi la voce, però capisci che se io dico a mio figlio non andare in quel giardino perché c'è il pericolo che un cane ti venga addosso, se anche lui dovesse andare là, io non è che se il cane lo assale, io vado lì e dico, hai visto? Forza cane, mordilo lì perché deve imparare. No. Certo che se viene assalito dal cane è perché ha disubbidito, è andato lui lì. Ma quando io intervengo, prima, non so se interverrei perché il cane fa paura anche a me, però chiamo mia moglie e insieme andiamo. Scherzo. Sono stato assalito anche da un cane da bambino, quindi ho questi traumi. Però Dio è dalla tua parte. Certo che poi dopo gli farai un bel discorso, certo che poi dopo, come tutti i genitori dicono, no? Poi io ti do il resto, non ti ha ucciso il cane, ti ammazzo io. Però ci sono bambini qua, no? Io sono bravo, sono delle battute, poi i vostri genitori a casa vi spiegano bene. Abbiamo un'idea distorta di Dio. E Gesù è venuto a raddrizzarla, tutto qua. E per farlo addirittura è morto sulla croce per noi. Io vi dico, guardate che anche a me ogni tanto, ma per delle stupidate, ti succede qualcosa e subito dici, ma cos'è che ho fatto di male? Ma perché devi pensare che hai fatto qualcosa di male, che Dio ti stia punendo? Magari hai fatto qualcosa di male, ma non è Dio che ti sta... Dio non agisce così, Dio piuttosto ha preso il tuo posto. Questo è il messaggio più bello della croce. Questo è il messaggio... Ogni peccato è stato perdonato sulla croce. Questo è il Vangelo, questo è ciò che noi siamo chiamati ad annunciare. E Gesù era nel Getsemani, ha preso la decisione di seguire Dio, e voglio leggervi questo passo in Matteo 16, versetto 24. E mi piace leggerlo da qua, perché qua ci fa capire che è un'indicazione non solo per lui, ma per tutti noi. Gesù dice... Allora Gesù disse ai suoi discepoli, se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Ognuno di noi ha la sua croce, che non è né tua moglie, né tuo marito, né... ok. È il fatto che se scegli di fare sul serio con Dio, il nemico cercherà di metterti alla prova e di vagliare la tua scelta. E non solo questo, siccome tu inizierai a camminare in maniera diversa rispetto a tutto il mondo, rispetto a come il mondo vive, chiaramente vivrai una pressione, vai controcorrente. E quindi è normale che vivrai quella difficoltà. A volte ti sembrerà, Gesù non so, è andato sulla croce e poi è stato messo nella tomba. La croce è proprio il momento in cui vivi tutta questi attacchi, questa opposizione. E poi a volte si vive questo silenzio assordante. Sembra che nulla cambi. Sembra che tu hai fatto delle scelte, ma che Dio non se ne sia neanche accorto. Aspetta 3 giorni. Aspetta un po'. Perché lo Spirito Santo sta facendo qualcosa. Lo Spirito Santo sta facendo qualcosa. Ubbidienza fiduciosa. A volte chiedo alla Chiesa, e noi nel frattempo che cosa facciamo? Nel frattempo dobbiamo trovare il modo di dimostrare la nostra lode a Dio, lodandolo, ringraziandolo, celebrandolo, ricordando le sue promesse. Alleluia. E così arriviamo in Marco, al capitolo 16, Marco capitolo 16, al versetto 1 dice che trascorso il sabato Maria Maddalena, Maria madre di Giacomo, Salome acquistarono degli aromi per andare ad imbalsamare Gesù. La mattina del primo giorno della settimana, molto presto, vennero al sepolcro a levare del sole e dicevano fra di loro, chi ci rotolerà la pietra dall'entrata del sepolcro? E alzando gli occhi videro che la pietra era stata rotolata. Una traduzione dice che la pietra era stata ribaltata. La concezione che abbiamo di Dio deve essere ribaltata. La croce e la risurrezione hanno ribaltato l'idea che noi avevamo di Dio. E dice, sebbene fosse molto grande, entrate, guardate che è un miracolo cambiare idea su Dio, perché è un macigno che ci portiamo dentro fin da neonati. L'abbiamo imparato dalla vita dei nostri genitori, dalla cultura. È veramente un miracolo quando cambi idea su Dio e inevitabilmente cambi idea anche su te stesso e sulle persone intorno a te, sullo scopo della tua vita. È una cosa meravigliosa. E guardate, entrate dunque nel sepolcro, videro un giovanetto che sedeva nel lato destro vestito di bianco e rimasero spaventate. Gli disse loro, non vi spaventate. Chiesa, è nostra responsabilità acquietare il nostro cuore nei momenti in cui, sapete, quando loro ormai, non pensavano di trovare Gesù risorto, loro pensavano che la situazione fosse ancora lì, ferma, immobile, così come era stata sigillata, l'abbiamo cantato, chiuso lì, e invece Dio sta facendo qualcosa, e quel qualcosa ti può anche spaventare, e loro dicono, non vi spaventate, voi cercate Gesù il Nazareno. Vedete, Gesù il Nazareno, la tua storia rimane la tua storia. Gesù rimane Gesù 100% uomo, con la sua vita, la sua storia. Quando la parola dice che dobbiamo rinnegare noi stessi, non sta parlando della nostra unicità. Anzi, Gesù è venuto a fare in modo che noi riscopriamo la nostra unicità, il nostro valore in Lui. Stava parlando proprio del modo di pensare umano. Devi rinnegare quel modo sbagliato di pensare. Dice Gesù il Nazareno, guardate in un versetto Marco racchiude tutta la storia di Gesù. Gesù il Nazareno è stato crocifisso e lui per sempre rimarrà colui che ha pagato per noi. E quelle ferite nelle sue mani, nel suo costato, sono diventate cicatrici che raccontano di come Dio può trasformare un lutto in danza, di come Dio può trasformare un dolore in gioia, di come Dio può trasformare quello che sembra perduto. Guardate, Dio ha tanto amato il mondo, eppure l'amore a volte, umanamente parlando, sembra perdente. Gesù sulla croce sembrava un perdente. E a volte nelle scelte che noi facciamo di perdonare, di lasciare andare, di amare i nostri nemici, di porgere l'altra guancia, sembriamo perdenti agli occhi del mondo. Agli occhi del mondo. Ma fai passare 3 giorni. Fai passare 3 giorni. Alleluia. Però devi saperlo che ci può essere questo tempo di opposizione, di silenzio, di tentativo di scoraggiamento. No, alza i tuoi occhi, perché l'aiuto viene dall'Eterno. Il salmista diceva, alzo gli occhi ai monti, da dove mi verrà l'aiuto? L'aiuto viene dall'Eterno, da colui che ha fatto il cielo, la terra. Alleluia. Straordinario. Dice, è stato crocifisso, è risuscitato. È risuscitato, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Andate a dire ai discepoli, vi aspetta lì dove vi ha detto, come vi ha promesso. C'è qualcosa di nuovo, come vi ha promesso. C'è qualcosa di nuovo, come vi ha promesso. Sapete, Gesù è risorto perché il Padre ha preso gioia nel Figlio e nella ubbidienza fiduciosa del Figlio. Noi siamo creati dalla gioia creatrice del Padre e siamo ricreati dalla gioia salvifica del Padre. Noi siamo frutto di gioia al 100%. Io sono nato dalla gioia di Dio, sono salvato dalla gioia di Dio. Alleluia. Siamo creati dalla gioia e siamo creati per la gioia. Voglio concludere con un aneddoto diverso rispetto a stamattina, però sento di raccontarvi questo. Non so perché mi succedono tutte queste cose, però quando avevo 20 anni, ho avuto un'infanzia veramente difficile fino ai 20 anni. A 20 anni a me piaceva giocare a pallacanestro. So che tutti quanti voi vi stavate chiedendo chissà che sport fa con questo fisico che ha. Pallacanestro. Però, come succedeva spesso, per giocare a pallacanestro da solo è un po' brutto. Quello che succedeva spesso è che andavo al campo di pallacanestro del parco dove avevamo la chiesa a quei tempi, e anche se non avevi il pallone andavi lì e speravi di trovare qualcuno, ok? E quel giorno sono andato lì, c'era un ragazzo sui 25-30 anni che giocava da solo a pallacanestro. È una situazione ideale, perché è da solo, è triste, è brutto giocare da solo, no? Allora vado io e mi propongo. Dico, senti, ti va di giocare insieme un po'? E mi dice, sì, giochiamo insieme. E lui era molto bravo, lui tirava la palla al canestro, faceva sempre canestro perfetto, e la palla gli tornava a lui. Ma era incredibile, io non ho mai visto, né mai ho più visto uno giocare così. Dopo 20 minuti che la palla ritornava a lui, sono andato via. Non ho mai toccato palla. Era una perfezione, ma non sto scherzando, era una perfezione che ti escludeva. Noi abbiamo questa immagine di Dio. La Pasqua invece ci racconta la storia di un Dio che è perfetto, ma che pur di farti giocare è stato disposto non solo a sbagliare un tiro a canestro, ma a diventare lui stesso peccato e fare in modo che questa palla potesse rimbalzarti vicino per chiederti di venire a giocare ancora. Forse ti sei sentito escluso, non all'altezza, ma quando Dio ti passa la palla così dolcemente è proprio un invito. Vieni, giochiamo ancora un po' insieme. Ho creato tutto questo per te. Ho creato tutto questo per te. Come fai a pensare male di me? Come hai fatto a pensare questo di me? Che io potessi volere il tuo male, che io possa averti abbandonato, che io possa essermi dimenticato di te. Vieni. E noi avremo quasi paura di andare davanti a un Dio così. E ti dice, guarda, prendi la palla, giochiamo insieme. Io ti ho creato per avere comunione con me, per vivere con me, per gioire di me. Alleluia. Amen, chiesa. Quanti di voi siete pronti a raccogliere questa palla? Guardate che non sto parlando soltanto di nuova nascita, sto parlando anche di chi conosce il Signore già da tempo, però ha perso un po' l'entusiasmo di giocare con Dio, perché forse non hai capito certe cose che ti sono avvenute, le hai interpretate male, questo sospetto che dentro di noi è difficile da estirpare. Devi proprio starci attento. Paolo diceva, noi dobbiamo rendere sottomesso ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo, ai pensieri di Cristo, perché è un attimo, però quando impari a riconoscerlo è anche molto veloce riconoscere i pensieri sbagliati che a volte ci vengono. E la croce, la morte e la resurrezione di Gesù, io quando dico croce parlo anche della resurrezione, ci dimostra che Dio è assolutamente, assolutamente, assolutamente dedicato a noi, al nostro bene. Giovanni 3,16, l'ho già citato prima, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato suo figlio affinché chiunque crede in lui, ubbidisce fiduciosamente a lui, alla sua parola, non muoia ma abbia vita eterna, una vita piena e abbondante. Amen. Alziamoci in piedi. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Grazie Padre. Alziamo un attimo le nostre mani verso il cielo. Alleluia, grazie Padre, grazie Signore, sei un Dio meraviglioso, sei un Dio meraviglioso, sei un Dio meraviglioso, glorioso, alleluia, alleluia, alleluia, ti amiamo Signore, ti amiamo Signore. Io sento proprio che il Signore sta facendo risuonare questa domanda nei cuori di alcuni di noi. Come hai fatto a pensare questo di me? Dove? Da dove l'hai tirato fuori? Questo pensiero che io possa volere il tuo male o che io possa essermi allontanato da te, io sono proprio lì, vicino a te, vicino a te, vicino a te, vicino a te. Alleluia. Vicino a te. Io sono il Dio onnipotente, ma sono papà. Sono papà. Papà. Sono il padre. Sono tuo papà. Sono tuo papà. Ti voglio bene. Sono orgoglioso di te. Ti ho creato io e ho proprio l'idea che tu sia venuto piuttosto bene. Sono orgoglioso di te. Sono felice di te. Amo te. Amo il tuo modo di pensare, il tuo modo di vedere le cose, la tua creatività. Alleluia, io sono al tuo fianco. Ti ho intessuto realmente io, ti ho desiderato io, ti ho voluto io, ti ho salvato io e ti voglio accompagnare giorno per giorno, giorno per giorno. Ma come ha detto Gesù, nel mondo avrete tribolazioni, ma io ho vinto e sono al tuo fianco. Alleluia. Io vorrei che trovaste almeno un paio di persone al quale dire in maniera molto forte e determinata: il dolore non ha l'ultima parola nella mia vita. Diglielo. Lo so che forse non siete abituati, però a me piace fare così. Dì a qualcuno vicino a te in maniera molto seria, molto: il dolore non ha l'ultima parola nella mia vita. Voglio sentirvelo dire, diteglielo. Alleluia. Gesù Cristo è il mio Signore. Alleluia, è Lui che ha l'ultima parola. Alleluia, io vorrei sentire un popolo che gioisce nel Signore, gioisce nella sua grazia, gioisce nel sapere che Gesù è stato provato come noi, che ci capisce, ci comprende, che anche quando siamo deboli e titubanti, Lui non si spaventa, ma è lì vicino a noi per aiutarci, incoraggiarci, per sostenerci, per portarci al di là di ogni situazione, di ogni difficoltà. Gloria a Dio, gloria a Dio. E mentre noi lodiamo il Signore, lo Spirito Santo si muove, lo Spirito Santo si muove, lo Spirito Santo si muove e compie quello che noi non siamo in grado di fare. Gesù ha risorto il corpo di Cristo, ha risorto il corpo di Cristo, e quello stesso Spirito vive in noi, quello stesso Spirito dà vita alla Chiesa, quello stesso Spirito trasforma le situazioni. Alleluia, alleluia. Dillo, fai passare questi 3 giorni e poi vedrai. Faccio passare questi 3 giorni, faccio passare questi 3 giorni, faccio passare questi 3 giorni. Alleluia! Alleluia, non torno indietro io faccio passare questi 3 giorni. Alleluia, alleluia.